Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. L'idea di ingentilire la mente della piccola amica con una quantità di letture e conversazioni utili non si era per intanto spinta oltre qualche capitolo introduttivo e l'intenzione di proseguire l'indomani. Era molto più comodo chiacchierare che studiare, molto più piacevole lasciare che la sua immaginazione plasmasse e maturasse il destino di Harriet che arrabattarsi ad affinarne la mente o a esercitarla su fatti positivi. E la sola occupazione letteraria che per ora assorbisse Harriet, il solo patrimonio intellettuale che andasse accumulando per la sera della vita, consisteva nel raccogliere gli indovinelli di ogni sorta in cui le accadeva di imbattersi e trascriverli in un sottile inquarto di carta cilindrata messo insieme dall'amica e adorno di cifre e trofei. Non era affatto desiderio di Emma che tutti i cervelli di Highbury fossero chiamati a raccolta. L'unica persona alla quale fece appello fu il reverendo Elton, che invitò a fornire qualunque enigma, charada, rebus, veramente buono, gli riuscisse di trovare. «Perché non ne compone una di sua testa, reverendo Elton?» disse Emma. «È l'unica garanzia d'originalità e nulla potrebbe riuscirle più facile». «Oh no, non aveva mai o quasi mai scritto componimenti del genere in vita sua. Che sciocco!» Temeva che neppure la signorina Woodhouse si fermò un momento. O la signorina Smith sarebbero riuscite a ispirarlo. Tuttavia, il giorno dopo, qualche prova di ispirazione si ebbe e il reverendo Elton fece una breve capatina. Appena il tempo di lasciare sul tavolo un foglio contenente una charada che un suo amico aveva dedicato a una giovane signora oggetto della sua ammirazione. Così disse. Ma dal modo di fare, Emma capì subito che era farina del suo sacco. «Non l'offro per la collezione di Miss Smith», dichiarò. «Essendo di un mio amico, non posso prendermi la libertà di esporla in alcun modo agli occhi altrui, ma può darsi che a lei non spiaccia prenderne visione». Il discorso era rivolto più a Emma che ad Harriet, cosa che ad Emma riuscì ben comprensibile. Era profondamente conscio di sé e trovava minori difficoltà ad affrontare lo sguardo di lei che quello della sua amica. Subito dopo uscì. Un attimo di silenzio e... «Lo prenda!» disse Emma sorridendo e porgendole il foglio. «È per lei! Prenda quello che le spetta!» Ma Harriet trepidava, esitava a toccarlo. Ed Emma, che non si faceva mai pregare ad essere la prima, fu costretta ad esaminarlo. «A Miss... puntini, puntini, puntini. Charada. Illustra il primiero la pompa dei re, i lussi splendenti dei grandi del mondo. Un quadro diverso dell'uomo che è sovrano dei mari presenta il secondo. Ma uniteli insieme e correte ai ripari. Svanisce ogni forza che uomo si chiama». È in ceppi il signor della terra e dei mari, e sola sovrana è la bella, la dama. Si asveglia la mente, l'intero a scoprire, raggiando il tuo occhio vi voglia a sentire. Emma rifletté, afferrò il significato recondito. Cominciò da capo per esserne ben sicura, padrona assoluta dei versi. Poi, passandola ad Harriet, si mise a sedere con un sorriso felice e, mentre Harriet si arrovellava intorno al poemetto, in tutta la confusione della speranza e dell'ottusità, pensava «Molto bene, reverendo Elton, molto bene davvero. Ne ho letto di peggiori. Courtship. Ottima allusione. Me ne compiaccio. È un modo di farsi strada. È dire molto apertamente... La prego, signorina Smith, mi conceda di farle la corte. Approvi con un solo sguardo la mia charada e le mie intenzioni. E l'occhio tuo mite raggiando l'approvi. Harriet, tutta lei. Mite, la parola giusta per i suoi occhi. Fra tutti gli epiteti, il più azzeccato che si potesse immaginare. Si asveglia la mente l'intero a scoprire, Harriet sveglia. Tanto di guadagnato. Per definirla così, un uomo deve essere cotto a dovere. Oh, signor Knightley, vorrei che ne traesse partito. Credo si convincerebbe e una volta tanto sarebbe costretto a riconoscersi in fallo. Un'ottima sciarada davvero e che va dritto allo scopo. Ormai le cose si avvicinano ad una crisi. Da queste piacevoli meditazioni, che altrimenti sarebbero state tali da protrarsi a lungo, la sviò l'insistenza delle disorientate domande di Harriet. «Che cosa può mai essere, signorina Woodhouse? Che cosa? Non ne ho la più pallida idea. Non riesco a indovinare. Che cosa sarà mai? Cerchi di venirne a capo, Miss Woodhouse. Mi aiuti. Non ho mai letto nulla di più astruso. Regno, forse? Mi domando chi sia l'amico e chi la giovane signora. Crede che sia la soluzione giusta? Può essere donna? E solo la donna, la bella, è sovrana. O Nettuno, sovrano dei mari. O tridente, o sirena, o squalo. O no, squalo è una sillaba sola. Deve essere molto ingegnoso come indovinello, altrimenti non ce l'avrebbe portato. Oh, signorina Woodhouse, crede che ne verremo a capo? Sirene, squali, sciocchezze! Che va pensando, mia cara Harriet? A che scopo portarci una sciarada scritta da un amico su una sirena o uno squalo? Mi dia il foglio e ascolti. A Miss... legga Miss Smith. Illustra il primiero la pompa dei re, dei signor della terra i piacevoli lussi. Ciò significa corte. Un quadro diverso dell'uomo sovrano dei mari presenta il secondo. Chiaro come il sole. Nave! E ora la crema. Ma uniteli. Courtship. Corteggiamento, capisce? E, ahimè che rovescio, sparisce il vantato potere dell'uomo. È in ceppi il signor della terra e dei mari, e solo la donna, la bella, è sovrana. Un complimento quanto mai appropriato. Ed ecco il corollario che, non credo, mia cara Harriet, debba riuscirle difficile capire. Se lo legga con calma. Non v'è dubbio che è stato scritto per lei e a lei. Ad una convinzione sì lusinghiera, Harriet non poté resistere a lungo. Lesse gli ultimi versi e fu tutta brividi e felicità. Non riusciva a parlare, ma neppure glielo si chiedeva. Bastava che sentisse. Per lei parlò Emma. «C'è in questo complimento un significato così diretto e personale che non posso avere dubbi sulle intenzioni del reverendo Elton. Il bersaglio è lei, Harriet, e non tarderemo ad averne la prova più completa. Lo pensavo che sarebbe finita così. Non credevo di potermi sbagliare, ma ora è lampante. Il suo stato d'animo è chiaro e deciso quanto i miei desideri in proposito dal giorno che la conosco. Sì, Harriet, proprio da quel giorno ho desiderato avvenisse quanto è avvenuto. Non sono mai riuscita a decidere se un legame sentimentale fra lei e il reverendo Elton fosse più desiderabile o più naturale. Ma ora la sua probabilità e la sua desiderabilità si sono perfettamente bilanciate. Come non esserne felici? Me ne rallegro, mia cara Harriet, con tutto il cuore. È una simpatia questa che una donna può essere ben fiera di ispirare. È un legame che non promette che bene. Le darà qualunque cosa possa chiedere. Considerazione, indipendenza, una bella casa. La metterà al centro di tutti i suoi amici veri, vicino ad Harfield e a me, e ribadirà per sempre la nostra intimità. È questa un'unione che non ci farà mai arrossire, Harriet, né l'una né l'altra. Cara signorina Woodhouse, cara signorina Woodhouse! Fu quanto a tutta prima Harriet riuscì ad articolare con molti e teneri abbracci. Ma quando si venne a qualcosa di più simile ad una conversazione, apparve sufficientemente chiaro alla sua amica che vedeva, sentiva, sperava e ricordava proprio al modo dovuto. La superiorità del reverendo Elton trovò ampio riconoscimento. «Qualunque cosa lei dica, Emma, è sempre giusta!» esclamò Harriet. «Perciò suppongo e credo e spero che così sia, altrimenti non me lo sarei mai immaginato. È una cosa che va tanto oltre i miei pregi. Il reverendo Elton, che potrebbe sposare qualunque donna! Che il reverendo Elton dovesse innamorarsi proprio di me! Di me, fra tutte quante, che il giorno di Santo Stefano non lo conoscevo nemmeno da parlargli! Lui, il più bell'uomo che mai sia stato, un uomo che tutti guardano con rispetto, proprio come il signor Knightley, e la sua compagnia talmente ricercata che, come dicono tutti, non ha bisogno di consumare da solo nemmeno un pasto se non gli garba, e ha più inviti di quanti giorni abbia la settimana, e così sublime in chiesa. Miss Nash ha l'elenco dei temi di tutte le prediche da lui tenute da quando è ad Highbury. Buon Dio, se ripenso alla prima volta che l'ho visto, chi poteva pensare? Le due Abbott ed io siamo entrate di corsa nella stanza verso strada e, sentendo che passava, abbiamo sbirciato attraverso gli scuri. È venuta Miss Nash e ci ha sgridato mandandoci via e a sua volta si è messo a sbirciare. Ma poco dopo mi ha richiamata e ha permesso anche a me di assistere alla scena, il che è stato molto gentile. E come ci è parso bello! Era a braccetto col signor Cole. È un'unione che, quali che siano i suoi amici, Harriet, riuscirà senz'altro loro gradita, purché abbiano un briciolo di senno. E noi, le nostre azioni, non le rimettiamo al giudizio degli stolti. Se sono ansiosi di vederla maritata felicemente, ecco un uomo il cui carattere amabile ne dà la sicurezza assoluta. Se la desiderano stabilita nello stesso paese e nello stesso ambiente nei quali hanno pensato di doverla collocare, ecco fatto. Se non perseguivano altro scopo che di saperla, come si suol dire, maritata bene, ecco qui la fortuna sicura, la posizione rispettabile, l'avanzamento nella scala sociale che devono appagarli. Verissimo! Come parla bene signorina Woodhouse! Mi piace ascoltarla perché lei capisce tutto. Lei e il reverendo Elton hanno la stessa finezza d'ingegno. Quella sciarada! Avrei potuto studiarci sopra 12 mesi e non avrei trovato nulla di simile. Pensavo, dal modo come lui ieri ne ha declinato la paternità, che volesse mettere alla prova la sua arte. Per me è senza eccezione la miglior sciarada che abbia letto. Certo, non ne ho mai vista una più azzeccata. Ed è anche lunga come quasi tutte quelle che avevamo. Non giudico la sua lunghezza un punto particolare di vantaggio. Queste cose in genere non sono mai troppo corte. Ma Harriet era troppo assorbita dai versi per sentirla. I confronti più lusinghieri sorgevano spontanei in lei. «Una cosa», disse infine con le guance in fiamme, «una cosa è possedere un'intelligenza comune come tutti l'hanno, e se c'è qualcosa da dire, sedersi a scrivere una lettera ed esporre in succinto proprio quel che si deve, e un'altra scrivere versi e sciarade come questa». Emma non avrebbe potuto desiderare una più accesa condanna della prosa del signor Martin. «Versi così dolci», continuò Harriet, «specie gli ultimi due. Ma come potrò restituire il foglio e sostenere che l'ho trovato? Oh, Miss Woodhouse, mi consigli?» «Lasci fare a me. Non muova un dito. Il reverendo Elton sarà qui stasera, immagino, e glielo restituirò io. Ci scambieremo qualche frase insulsa e lei non sarà neppure tirata in ballo. I suoi miti occhi sceglieranno il momento buono per raggiare. Conti su di me». Più tardi, e proprio mentre le ragazze stavano per lasciarsi in vista del pasto regolare delle 4, l'eroe dell'inimitabile sciarada si ripresentò. Harriet si voltò dall'altra parte, ma Emma poté accoglierlo con l'abituale sorriso e i suoi occhi pronti non tardarono a leggere in quelli di lui la coscienza di aver fatto una mossa decisiva, di aver gettato un dado. e si immaginò che venisse a vedere com'era rotolato. Tuttavia, il pretesto della visita fu di chiedere se si poteva organizzare la solita partita serale in casa Woodhouse, anche senza di lui, o se fosse poco o tanto necessario ad Harfield. In questo caso, ogni altra cosa sarebbe passata in second'ordine. Ma in caso contrario, il suo amico Cole insisteva già da tempo per averlo a cena e ci teneva tanto che gli aveva promesso condizionatamente di andarci. Emma lo ringraziò, ma non poteva permettere che per causa loro procurasse una delusione all'amico. Suo padre era sicuro di poter organizzare ugualmente la partita. Egli insistette e lei tornò a declinare l'offerta. Il reverendo Elton sembrava ormai sul punto dell'inchino quando, sollevando dal tavolo il foglio, Emma glielo restituì. «Oh, ecco la sciarada che è stato così gentile da lasciarci! La ringraziamo di avercela fatta vedere. L'abbiamo tanto ammirata che mi sono permessa di trascriverla nella collezione della signorina Smith. Spero che il suo amico non se l'abbia male. Non ho trascritto più dei primi 8 versi». Il reverendo Elton non sapeva proprio che dire. Aveva un'aria piuttosto imbarazzata e confusa. Balbettò qualcosa sull'onore, lanciò un'occhiata ad Emma e ad Harriet, poi, vedendo sul tavolo il libro aperto, lo prese e lo esaminò molto attentamente. Nell'idea di superare un attimo di imbarazzo collettivo, Emma disse sorridendo: «Deve scusarmi con il suo amico. Ma una sciarada così ingegnosa non poteva rimaner confinata a una o due persone soltanto. Non gli mancherà mai l'approvazione di ogni donna finché scrive con tanta galanteria». «Non esito a dire», rispose il reverendo Elton, sebbene inciampasse un bel po' nelle parole, «non esito a dire, almeno se il mio amico la pensa come me, non ho il minimo dubbio se, come me, potesse vedere onorata la sua piccola effusione lirica». E, guardando nuovamente il libro e riponendolo sul tavolo, «che considererebbe questo momento come il più trionfale di tutta la sua vita». Dopo questo discorso se ne andò il più presto possibile. Ma troppo presto non fu per Emma, giacché, con tutte le sue buone e attraenti qualità, c'era nel suo eloquio qualcosa di pomposo che le procurava sempre una gran voglia di ridere. E corse via per dare libero sfogo a questo impulso, lasciando ad Harriet il tenero e il sublime del piacere. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.